Un'esistenza eucaristica attira potentemente la nostra attenzione la frase del Redentore quando dice, dopo aver consacrato il pane e il vino, fate questo in memoria di me. Prima Corinzi 11:24, Luca 22:19. Tali parole racchiudono un comando e una dimostrazione di fiducia, poiché elevano l'agire umano all'agire divino. Inoltre ci viene indicata che è sua volontà che celebriamo la Santa Eucaristia per edificare con lui la Chiesa. Il modo imperativo con il quale Cristo istituisce il sacerdozio ci avverte anche con chiarezza che Cristo comanda che si seguano le tappe del suo operare e del suo dire, affinché in questo modo si compia sacramentalmente il sacrificio del Calvario, e che l'Eucaristia deve celebrarsi assai fedelmente, come egli la celebrò quando era con i dodici. I profondi desideri di imitare lealmente Gesù valgono per tutte e per tutti, in ragione dell'anima sacerdotale che vivifica ciascuna e ciascuno di noi. La vocazione cristiana, in effetti, esige da tutti, anche dai laici, la pratica di tutte quelle virtù che devono vivere i buoni sacerdoti. L'uomo cattolico, la donna cattolica, nella sua condizione specifica e personale, deve rendere interiormente presente a sé il sacerdozio di Cristo, in modo da attivare nella sua anima il sacerdozio regale ricevuto nei sacramenti del battesimo e della cresima. Prima Pietro 2:9. Con quest'anima sacerdotale, che chiedo al Signore per tutti voi, scrive San José Maria, dovete fare in modo che nel bel mezzo delle occupazioni ordinarie la vostra vita intera si trasformi in una continua lode a Dio, orazione e riparazione costante, supplica e sacrificio per tutti gli uomini. Tutto ciò, in intima e assidua unione con Cristo Gesù, nel santo sacrificio dell'altare. Chiediamo a nostra Madre Maria che, come lei accanto alla croce, anche noi sappiamo restare vigilanti accanto all'altare dove si rende presente il sacrificio di suo Figlio. Gesù è con noi. Con la transustanziazione si rinnova l'infinita pazzia divina dettata dall'amore. Quando tra poco si ripeterà questo momento, parliamo con il Signore, ciascuno di noi, dicendogli senza parole che niente potrà separarci da Lui, che la sua disponibilità inerme a restare sotto le apparenze così fragili del pane e del vino ci ha convertiti a una schiavitù volontaria. Presta me menti de te vivere, e te illi semper dulce sapere. Inno adoro te devote. Fa che io sempre viva di te, e sempre gusti la dolcezza del tuo amore. Possiamo approfondire le espressioni che la liturgia utilizza per il rinnovamento incruento del sacrificio del Calvario. Lo ha fatto dettagliatamente Giovanni Paolo II nella sua ultima lettera ai sacerdoti, scritta poco prima del suo transito al cielo. Per quanto si rivolgesse ai ministri ordinati, molte delle sue esortazioni possono applicarsi analogamente agli altri fedeli. Giovanni Paolo II metteva in risalto che la vita del sacerdote e quella di qualsiasi cristiano deve essere un'esistenza grata a imitazione di Cristo, il quale nell'ultima cena rese grazie a Dio Padre. Siamo riconoscenti per i doni di Dio nella messa, ben uniti al rendimento di grazie di nostro Signore. Possa la nostra esistenza e quella di ogni persona essere inoltre un'esistenza donata, come quella di Cristo che sulla croce si offrì senza limiti in riscatto per gli uomini e le donne di tutti i tempi, e che in ogni messa rinnova l'oblazione della sua vita. Il Signore propone questo invito: prendete e mangiate, prendete e bevete. Tale deve essere anche la nostra ambizione, cercando di identificarci con Lui. Darci senza misura, quotidianamente, agli altri, con una disponibilità vera, generosa e abnegata, per servire tutte le anime, specialmente coloro che si trovano intorno a noi. Giovanni Paolo II aggiungeva che il corpo e il sangue di Cristo sono offerti in sacrificio. Il corpo è offerto, il sangue è versato per la salvezza dell'uomo, di tutto l'uomo e di tutti gli uomini. La dimensione apostolica è parte fondamentale della vocazione cristiana. Suscitiamo nel nostro cuore quest'urgenza quotidiana che ci aiuterà a vivere meglio il sacrificio dell'altare, a sentire il peso della umanità, della Chiesa, a trasmettere alle persone in un apostolato convinto la necessità di assistere alla celebrazione dell'Eucaristia, ricordando l'esortazione di San Pietro. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Prima Pietro 2,9. Che buon momento quello dell'elevazione per porre Cristo con il desiderio e con propositi di fedeltà al vertice di tutte le realtà umane. Cerchiamo però che tale desiderio non si limiti a un semplice modo di dire, ma che diventi realtà nell'attività quotidiana di ciascuna e di ciascuno. Fu proprio durante l'elevazione della Sacra Ostia il 7 agosto del 1931 che il Signore fece udire senza rumore di parole a San José María, nel fondo dell'anima, un eco del «Et ego, si exaltatos fuer a terra, omnia tram ad me ipsum» Giovanni 12,32 Vulgata, e cioè «E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutto a me». Come spiegò spesso, comprese allora con nuova luce ciò che il Signore si attendeva. Saranno gli uomini e le donne di Dio ad innalzare la croce con la dottrina di Cristo sul pinnacolo di tutte le attività umane, mediante un lavoro professionale ben realizzato e offerto a Dio in unione con il sacrificio di nostro Signore. Dopo la consacrazione del pane e del vino, il sacerdote proclama che il sacrificio divino si è reso sacramentalmente presente, Mysterium Fidei, e il popolo risponde con un'acclamazione che in ogni caso esprime l'impegno dei cristiani a lavorare per la diffusione del regno di Cristo sulla terra, fino alla sua venuta gloriosa alla fine dei tempi. Mortem tuam annunciamus, Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venias. Nella lettera alla quale mi riferivo in precedenza, Giovanni Paolo II terminava dicendo che la nostra deve essere un'esistenza eucaristica, alla scuola di Maria. La Vergine ha dato la vita umana al Figlio di Dio e lo ha assistito amorosamente mentre portava a compimento la redenzione sul Calvario. Chi più di Maria può farci gustare la grandezza del mistero eucaristico? Si chiedeva il Santo Padre. Nessuno come lei è capace di insegnare ai sacerdoti con quale fervore si debbano celebrare i santi misteri. Nessuno come Maria è in grado di mostrare a tutti noi con quale devozione occorra partecipare alla Santa Messa e ci si debba intrattenere in compagnia del suo Figlio nascosto sotto i veli eucaristici. Supplichiamo, nostra Madre, che crescano nella nostra anima i sentimenti di adorazione, riconoscenza, riparazione e impetrazione che lei coltivò sempre in strettissima unione con suo Figlio. Il Concilio Vaticano II ha proclamato che la Beata Vergine avanzò nella peregrinazione della fede e serbò fedelmente la sua unione col Figlio sino alla croce, dove non senza un disegno divino se ne stette, Giovanni 19,25, soffrendo profondamente col suo unigenito e associandosi con animo materno al sacrificio di lui, amorosamente consenziente all'immolazione della vittima da lei generata. Lei agì con piena attenzione ai gesti e alle parole di suo Figlio, senza perdere neanche uno dei suoi sguardi colmi di pace e di tristezza, neanche uno dei suoi sospiri faticosi ma donati al Padre, neanche il più piccolo dei suoi sforzi per soffrire come soltanto chi è Dio e uomo può farlo, neanche un po' della sua sete di anime. Questo atteggiamento deve ispirare il nostro comportamento durante tutta la celebrazione eucaristica e non soltanto durante la consacrazione. Tutto nella Messa rimanda al sacrificio del Calvario. Chiediamo a Maria, donna eucaristica, di fare di noi donne e uomini innamorati del santo sacrificio dell'altare. Il memoriale delle meraviglie divine. Con la consacrazione si è compiuta la parte essenziale della messa. Obbedendo al comando di Gesù, fate questo in memoria di me, 1 Corinzi 11:25, Luca 22:19, abbiamo già tra di noi, sotto le specie sacramentali, la vittima grazie all'immolazione della quale siamo stati redenti. Dio Padre ha accettato il sacrificio di suo Figlio e ce lo ha donato di nuovo sotto i veli eucaristici. Ha accolto anche il nostro piccolo e povero sacrificio che Gesù ha incorporato al suo. Nonostante ciò, è talmente grande quello che è appena accaduto, talmente ricco di contenuto, che la Chiesa ha bisogno di meditarlo e di esporlo nelle preghiere che seguono per ringraziare in profondità e ricordare und et memores gli straordinari benefici ricevuti. Sicuramente ci vengono in mente vari passi dell'Antico Testamento, dove si cantano e si descrivono le meraviglie della misericordia divina operate nella storia della salvezza grazie all'intervento di Dio attraverso i suoi inviati. Poi, ogni volta che Israele celebrava la Pasqua, gli eventi dell'Esodo erano rivissuti come se stessero accadendo proprio in quei momenti. Non si trattava della semplice memoria di un fatto relegato nel passato. La celebrazione in qualche modo riportava quei prodigi nel presente. A maggior ragione e con piena realtà si compie l'attualizzazione del sacrificio della nuova alleanza. Quando la Chiesa celebra l'Eucaristia, fa memoria della Pasqua di Cristo e questa diviene presente. Il sacrificio che Cristo ha offerto una volta per tutte sulla croce rimane sempre attuale. Per questo sintonizziamo la nostra esistenza con le finalità del sacrificio eucaristico, nella certezza che per i meriti infiniti di Gesù la nostra adorazione, la nostra impetrazione, la nostra espiazione e il nostro rendimento di grazie salgono al cielo e sono accolti da Dio Padre. Così saremo in grado di imprimere queste caratteristiche alle diverse azioni della giornata, perché in Cristo persino la più piccola frazione di tempo, di sforzo, di lavoro, di mortificazione acquisisce un significato trascendente ed eterno, pieno di efficacia apostolica sulla terra. Il Papa San Leone Magno insegnava che dopo l'ascensione, quel che era visibile del nostro Redentore è passato nei riti sacri. Con la precisa indicazione «fate questo in memoria di me», il Signore dava agli Apostoli l'incarico e la capacità di ripetere efficacemente le sue parole e i suoi gesti. Proprio con questo «in memoria di me» sembra dir loro «non dimenticatevi di me, abbiate sempre presente quello che ho portato a termine per voi». Per questo la Chiesa eleva al cielo la preghiera che la liturgia chiama anamnesi, ovvero il memoriale dell'opera della redenzione compiuta e resa attuale in modo sacramentale mediante la consacrazione. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Il fatto di ricordare al cospetto del Padre le meraviglie della redenzione risponde oltretutto a un'esigenza legata al nostro modo di essere. Noi spesso dimentichiamo. In ogni messa la Chiesa ricorda queste grandi opere di Dio affinché le assaporiamo con costanza ringraziando come si deve. Così le prove dell'amore di Gesù per noi si incideranno nel profondo della nostra anima. A forza di considerarle una volta e un'altra finiremo per diventare persone riconoscenti e penitenti. La nostra vita, la nostra giornata intera acquisirà la fragranza di un'ostia pura, santa e immacolata. Nel fare la memoria di Gesù durante la celebrazione eucaristica, la Chiesa presenta al Padre le meraviglie realizzate per mezzo di suo Figlio. Offre a tutti il rifugio sotto l'ampio manto della misericordia divina che si distende sull'umanità grazie ai meriti di Cristo. Grazie alla Santa Messa si ripara in maniera sovrabbondante per i nostri peccati e quelli dell'intera umanità. Si evidenzia qui chiaramente che la Messa è un sacrificio propiziatorio per i peccati degli uomini. È davvero molto necessario chiedere perdono a Dio per le offese che riceve, in primo luogo per quelle ricevute da parte nostra. Quale importanza attribuiamo all'esigenza di partecipare alla messa il più degnamente possibile? Come coltiviamo nel cuore la riconoscenza? Viene molto a proposito, per la donna o per l'uomo che ama la messa, la considerazione che i peccati veniali fanno un gran danno all'anima, poiché impediscono di vedere nitidamente, nella misura della nostra pochezza umana, la misericordia e l'amore di Dio che sono donati nell'Eucaristia. Se affrontiamo la nostra vita personale con delicatezza, se ricorriamo alla forza riparatrice del sacrificio di Cristo di fronte alle leggi ingiuste che in molti luoghi cercano di imporsi, in ambiti decisivi come il matrimonio e la famiglia, la protezione della vita umana dal concepimento fino al suo termine naturale e in altri campi dei quali non possiamo disinteressarci, sapremo reagire sia con le iniziative che ciascuno reputerà opportune, nel pieno uso della propria libertà e responsabilità personale, sia con la preghiera fervente e fiduciosa, con il sacrificio generoso ben uniti al santo sacrificio dell'altare, pieni dell'ottimismo di chi sa che Dio non perde battaglie. Quando nella Santa Messa ricordiamo i benefici ricevuti, ci rivolgiamo a Dio Padre nel silenzio del cuore per dirgli: Signore, siamo poveri peccatori, ma tuo Figlio ci ha redento per mezzo della sua beata passione. Siamo creature di fango, ma tuo Figlio, risuscitato dai morti, ci ha ottenuto l'immortalità futura. Apparteniamo alla terra, ma tuo Figlio, gloriosamente asceso al cielo, ci ha preparato lassù un posto. Lui è il nostro capo. Con lui e in lui abbiamo la sicura speranza di giungere un giorno alla dimora celeste. Dobbiamo uscire ogni giorno dalla Santa Messa con una gioia nuova. Nel richiamare alla memoria le grandi opere di Dio, ci mettiamo alla scuola di Maria, donna eucaristica, secondo l'espressione di Giovanni Paolo II, e facciamo nostri i sentimenti di nostra madre nel Magnificat. L'Eucaristia, infatti, come il Cantico di Maria, è innanzitutto lode e rendimento di grazie. Quando Maria esclama: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore», ella porta in grembo Gesù. Loda il Padre per Gesù, ma lo loda anche in Gesù e con Gesù. È precisamente questo il vero atteggiamento eucaristico. Ogni volta che il Figlio di Dio si ripresenta a noi nella povertà dei segni sacramentali, pane e vino, è posto nel mondo il germe di quella storia nuova in cui i potenti sono rovesciati dai troni e sono innalzati gli umili. Luca 1,52.